Aiutarti a superare l'orizzonte. Ho immaginato l'infinito intorno a noi, alle mie intenzioni. E ora impazzirò, impazzirò. Non vedo soluzione, solo un pallido spettacolo. La nostalgia, illusione senza seguito. T'osservo convinto che amarti, lasciarti quel profumo d'eternità, non servirà, no, non servirà. È inutile sperare che un tramonto porti con sé segni e fremiti, lacrime e brividi di una notte ancora persa nel ricordo di noi due. Domani cercherai ciò che oggi hai abbandonato qui, una parte di te stessa. E ora quale altra direzione prenderai? Non ti resta che un volo a pugni chiusi verso il sole, come un Icaro ribelle per ritornare, cadere ancora qui, sentirti dire amarti, lasciarti quel profumo d'eternità. Non servirà, lo so, non servirà. L'ennesima occasione per resistere a quel fuoco che non possiamo estinguere. Ancora un'altra convinzione, non servirà a nascondere quella sola verità che non può tacere, che mi fa gridare a...